Radio 24 Reportage. Aisha e le altre, ritorno a Dakar, di Gigi Donelli. Teatro di strada tra le vie di Lugà, Senegal settentrionale. Appuntamento appena prima che il tramonto trasformi il quartiere in un gioco di ombre. Un gruppo di attori mette in scena il grande viaggio verso l'Europa a bordo delle canoe, le Sunugal, che scivolano sull'oceano verso le Canarie, che è avamposto d'Europa e territorio spagnolo. Teatro pedagogico per un viaggio della speranza che, come è accaduto spesso, finisce in tragedia, proprio mentre i bambini del quartiere vengono invitati a salire a bordo. Lugà, sorgente senegalese dell'emigrazione verso l'Italia, gemellata per meriti sul campo con la città di Torino. Il teatro ammonisce chi vuole partire a tutti i costi, via mare, ma anche attraverso il deserto che lambisce questa terra sfiorata dal Sahara. Ci sono arrivato in 5 ore di auto da Dakar, dritto a nord, lasciandosi alle spalle l'Africa verde per quella di terra e di sabbia. Lugà, città dalle case bianche e vuote dei ragazzi partiti a migliaia dagli anni Ottanta per costruire in Italia la più grande comunità dell'Africa nera nel nostro paese. Noi li abbiamo chiamati Vukumpra, ma non siamo gli unici ad inventarci dei nomi. Modu, sì, siamo Modu, noi, quello che viene dall'Italia fino a qui, chi lavora nell'Italia vengono qua, li chiamano Modu. Mudu, quelli che viaggiano verso il paese dei Tubab. Ibrahim racconta il lessico della migrazione nel suo negozio di generi alimentari. Vukumpra per noi, Tubab, bianchi, Mudu per la sua gente. Ora emergono anche le Fatu, che sono le donne migranti. Eroi della povertà degli anni Ottanta. A 18 anni si partiva e basta, ispirati dai fratelli maggiori, da un parente. Obiettivo, un mondo che, senza cellulari e internet, era 1000 volte più lontano di quanto non lo sia oggi. Loro, i Mudu, erano gli eroi di questo angolo di Africa rurale. È vero, primi tanti anni fa eravamo i modelli, però adesso non è tutti, però alcuni non vogliono più andarci perché non c'è più lavoro laggiù in Italia. Adesso si ragiona sull'equilibrio, cercando un punto d'incontro tra i due mondi. Le cifre parlano chiaro. Almeno 1 miliardo di euro l'anno di rimesse tra l'Europa e Dakar. Migranti come globuli rossi, portatori di ossigeno, un'economia fragile. Poi la crisi impone una nuova visione delle cose. Prima tutto si riversava nel consumo, poi, anche causa crisi, si esplorano alternative, oltre al piccolo commercio, alternative sostenibili anche se le cose dovessero andare male. Ma lo sai, per farti qualcosa, lo sai, capito? Io torno qui in Senegal per farmi qualcosa, apri un negozio e vende, perché come l'estate ormai io faccio solo le stagioni, poi torno qui. E qui i 6 mesi che faccio qui, 7 mesi, qualcosa devo farmi a lavorarmi, perché non ce la faccio senza lavoro qui. Non mi basta quello che guadagno laggiù in Italia. Non mi bastano di mantenermi qua. Intanto anche la cooperazione si adatta ai cambiamenti e fa i conti con la ritirata del pubblico. Gli italiani di Fondazione For Africa, solo qui in Senegal, hanno iniettato quasi 5 milioni di euro in una rete di progetti che riunisce 14 tra ONG italiane e associazioni di migranti africani. E le donne sono le protagoniste. Fadje Ndiaye, Presidente FSDN KBMR. Allora, ha detto che anche se sono madri, hanno dei figli e altri impegni a casa, hanno sentito il bisogno anche loro di prendersi a carico, di non dipendere soltanto dai mariti o da padri e altri, ma di prendersi a carico, di fare un'attività proprio loro. Quindi questo è uno dei motivi che li ha stimolati di più. Il fatto di avere l'opportunità di lavorare con migranti come noi, che sono tornati da una migrazione di anni, li ha stimolati, nel senso che ci ha portato a loro la possibilità di svolgere questa attività con più facilità. Può alzare la mano chi ha un figlio, marito, zio immigrato in Europa in questo momento? Non mostriamo Cioè, tutte hanno alzato la mano. Tutti. Ok. Sì, in Italia, quindi ogni con me abbiamo capito perché tornano a casa e parlo italiano anche con loro. Intervista collettiva alle 25 donne del Groupement di Kebemer, riunite per trasformare i frutti di questa terra in bibite sotto forma di succhi e di sciroppi. Madri e mogli, donne musulmane di una comunità rurale dell'Africa che vogliono lavorare per la casa, per l'istruzione dei figli, magari anche per colmare l'attesa che a volte dura degli anni. Kumbali e Aisha Tu si sono conosciute in Italia con il passaparola, avvicinate dal desiderio di trasferire la loro voglia di fare anche nel loro paese di origine. Con il sostegno finanziario delle fondazioni For Africa e il contributo tecnico di ONG come CISVE e ACRA sul fronte della microfinanza, il gruppo è al lavoro da un anno, animato dalle Fatou Fatou tornate da Mantova e da Parma. Allora, il percorso della seconda annualità prevede un business plan, un piano commerciale, tutto un accompagnamento verso la promozione e vendita del prodotto, sia a livello locale, nei mercati limitrofi, con anche dei punti di vendita, e anche nelle scuole, perché per esempio durante le ricreazioni, nei stadi, manifestazioni religiose, nei campomadi del turismo responsabile, che il progetto ha una componente così. Cioè voi vorreste invadere di succhi di frutta, di succhi di sciroppi tutto il territorio, il paese, il si paese. Parte da Kebemer fino a Dakar e in Italia. Sama su aksigina bëgguma kuma xol dal dine yow li nekk si yow. Non ho spiegato un altro aspetto molto importante del nostro progetto, è la microfinanza, un fondo di credito che accompagna le donne soprattutto nei primi momenti di produzione grande. Il progetto ci ha dato un fondo di credito che abbiamo messo per loro, questo serve da garanzia per dare credito alle donne soprattutto nello start-up dell'impresa. E quindi pensiamo che le donne potranno chiedere questo credito per comprare materie prime, piccoli strumenti che mancano, perché si vuole veramente guadagnare spazio. Io nel 97 l'ho raggiunto, senegalese che è andato in Italia per ricongiungimento familiare. Lui è andato all'avventura quando si è andato. Prima ha fatto la tappa della Francia, poi dalla Francia ha saputo che sono dei cugini che sono in Italia e si è andato a fare subito l'operaio, ovviamente. Lui ha trovato altri senegalesi che facevano i Vukumpra, ma non essendo in grado di farlo ha detto subito che non lo può fare e ha aspettato di trovare un lavoro, un posto di lavoro dignitoso e sicuro, e l'ha fatto in fabbrica. In fabbrica. Dove? Prima a Pisa, in Toscana. Poi dopo hanno immigrato, perché hanno immigrato per Parma, perché anche lì Parma è una città accogliente. Allora, penso che tutto questo parte anche dalla nostra esperienza di immigrate. Nel senso che noi abbiamo fatto comunque una parte importante della nostra vita in Italia. Io ho lavorato quasi 10 anni in Italia, nel campo professionale soprattutto, della formazione professionale. Quindi fare la formazione ad altri per me non è nuovo. E il desiderio che avevo quando lavoravo lì era di dire la competenza e l'esperienza che sto acquisendo qui, spero un giorno o il più presto possibile poterlo riversare o trasferirlo alla mia popolazione, al mio Senegal, per lo sviluppo della nostra nazione. Io ero la primissima donna senegalese a arrivare a Parma. Gli uomini c'erano già, però ero una delle prime. E questo ha, secondo me, suscitato la curiosità dei parmigiani. Cosa abbiamo visto in Italia? Che l'Italia che cresce, e qui c'è i prodotti. La trasformazione, cioè Mantova non è lontano da Parma, una zona molto agricola, quindi la valorizzazione dell'agricoltura, delle risorse naturali e poi anche quando sei immigrata hai nostalgia dei tuoi prodotti e capisci di più quanto hanno valore, capisci di più quanto possono essere spendibili quanto possono essere canali per creare sviluppo. E questo è, penso che sia una incoerenza, se che c'è tre fort. Qualcosa di molto forte, senz'altro. Allora, lei dice, allora, io non parto più perché oramai ho la mia età, però se lavoro, se ho anche i mezzi, se mio figlio vuole partire, le posso anche pagare la spesa. Lei dice, la nostra impresa, se avrà successo, come speriamo, possiamo fare qui quello che non ha fatto un immigrato che ha immigrato 100 anni. Noi siamo migranti, ok? Ma siamo forse una richiesta che è a cavallo tra due culture. Lì ha la possibilità di valutare le due culture, di vedere il pur e il contro, gli aspetti positivi e negativi e di cercare di prendere il meglio di tutte e due. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.